Sono le 9:51 di mercoledì 21 febbraio 2024 e mentre i quotidiani italiani sostanzialmente ignorano la notizia del processo per l'estradizione a Julian Assange, fallendo miseramente il test che avevamo provato a immaginare ieri, soltanto il Fatto Quotidiano ha dato ampio risalto alla notizia, mentre pare che insomma nelle giornate chiare al crepuscolo qualcuno riesca a intravedere in lontananza una notizia comunque sapientemente deindicizzata, persino su Repubblica, ma appunto serve a dire che Repubblica se ne è occupato, ma sulla home page invece campeggia a tutta pagina la fine della storia sentimentale tra Matteo Berrettini e Melissa Satta, per carità, importantissimo, non so quanto per la libertà di informazione. Mi sto avviando in realtà al bar, non sto andando al lavoro oggi perché è una giornata in cui non lavoro e quindi faccio davvero, incarno perfettamente l'immaginario collettivo dell'uomo che non lavora oggi. E ripensando un po' alla chiacchierata dell'altro giorno con Fabio Benincasa e Marco Giovenale sugli spazi indipendenti, notavo che proprio qui vicino c'è un intero quartiere vicino all'Olgiata che si chiama La Cerquetta, che è nato dal nulla su una collina, sembra un po' una favela brasiliana, con queste case abusive una sopra l'altra, che però insomma nel tempo, un po' per la dolcezza del paesaggio, per il verde che c'è intorno, ha acquisito tutta una sua piacevolezza di fondo, anche se naturalmente le strade sono scrostate, ci sono questi muretti salmonati fatti diciamo davvero con scarsa perizia. Però ecco, la cosa bella di questo quartiere è che in realtà nasconde tantissime storie assolutamente non raccontate, perché è uno di quei posti invisibili, no? Dove vanno ad abitare soprattutto le maestranze che lavorano nelle zone residenziali come l'Olgiata, ma qui intorno ce ne sono altre, c'è anche le rughe, ci sono complessi residenziali e ci sono tutte queste persone che vengono da altri paesi a svolgere lavori che non solo non vogliamo più fare, ma nemmeno sappiamo più fare. Cioè io non saprei, riparare una serranda a casa, no? E tutte queste persone sono venute qui da noi, soprattutto dai paesi dell'est, a imparare a fare queste cose, oppure magari già le sapevano fare e si sono giustamente sostituite e hanno costruito un'economia che all'inizio era un'economia precaria, ma adesso ha tutta una sua assoluta dignità. Ed è bello anche vedere che i loro figli vanno a scuola e imparano subito un italiano impregnato di romanesco. Mi viene subito in mente Zalewski, no? Il giocatore della Roma, che ormai insomma ha una ventina d'anni e quando parla romano, ovviamente, quando parla italiano parla romano, ma è nato in Italia, ha genitori polacchi e ce ne sono tantissimi così, quindi c'è tutto un gruppo di persone che nascono in un perfetto clima multiculturale che secondo me sarà molto molto più efficace nel liberarci poi quando questi ragazzi cresceranno dalle paure, dalla paura dell'altro, dalla paura del diverso. Però la cosa a cui pensavo è che un quartiere come La Cerquetta effettivamente potrebbe essere una sorta di museo diffuso temporaneo, proprio perché contiene delle storie, e credo che se non avessi altro da fare sicuramente, e avessi per esempio un'associazione culturale, mi piacerebbe organizzare dei tour bussando alle porte di tutte queste case e ottenendo da ciascuno naturalmente l'autorizzazione preventiva a raccontare come queste persone sono venute in Italia, come hanno magari faticato all'inizio e come poi si sono integrati, perché proprio attraverso il contatto con ciò che è diverso da noi potremmo davvero liberarci di tante di quelle, di quei freni che in questo momento rendono la società italiana davvero così asfittica, con i risultati politici che tutti conosciamo. E nei miei sogni più reconditi, quindi, ci sarebbe qualcuno che ti dà un appuntamento magari alla base di questa collina, e una ventina di persone curiose che si affollano, e una guida che bussa alle porte delle famiglie già contattate. Poi entri in queste case, c'è un piccolo programma di racconti, magari bauli che si aprono, fotografie da sfogliare insieme, magari anche fotografie dei paesi da cui queste famiglie provengono, il racconto del viaggio, il racconto della loro integrazione, e poi magari un sito dove tutti questi materiali vanno a ricomporsi per lasciarci qualcosa di diverso, e soprattutto la costruzione di un senso, di un posto che in questo momento non significa nulla. Ecco, questo è il problema, è uno di quegli spazi che in questo momento non significa nulla e ha solo bisogno di essere raccontato. E così come la Cerquetta, insomma, a Roma ce ne sono tanti già ben raccontati, no? Storia di integrazione, c'è Torpignattara per esempio, con quelle strade come Via dell'Acqua Bulicante, che quando le attraversi all'ora di pranzo senti gli odori di ogni parte del mondo, e però non stanno su nessuna guida ancora. Ecco, questo è il punto, cioè non è quello che Roma come città racconta di se stessa, e forse è un grosso limite, qualcosa che si potrebbe provare, chi lo sa, a colmare in qualche modo.